Davide, insieme ai capi dell'esercito, separò per il servizio i figli di Asaf, di Eman e di Idutun, che eseguivano la musica sacra con le cetre, le arpe e con i cembali. Il numero degli uomini che esercitavano questo servizio era il seguente. Per i figli di Asaf, Zaccur, Giuseppe, Netania, Asareela. I figli di Asaf erano sotto la direzione di Asaf, che eseguiva la musica sacra secondo le istruzioni del re. Per Idutun, i figli di Idutun, Gedalia, Seri, Isaia, Simei, Casabia, Mattatia. Sei, sotto la direzione del loro padre Idutun, che profetava al suono delle cetre per celebrare e lodare il Signore. Per Eman, i figli di Eman, Bucchia, Mattania, Uzziel, Sebuel, Ierimot, Anania, Anani, Eliata, Giddalti, Romamti Ezer, Iosbecasa, Malloti, Kotir, Macaziot. Tutti questi erano figli di Eman, veggente del re, grazie alla promessa divina di esaltare la sua potenza. Dio diede a Eman 14 figli e 3 figlie. Tutti costoro erano sotto la direzione del loro padre per cantare nel tempio del Signore con cembali, arpe e cetre per il servizio del tempio di Dio sotto gli ordini del re. Il loro numero, compresi i loro fratelli esperti nel canto del Signore, tutti veramente capaci, era di 288. Per i turni di servizio furono sorteggiati i piccoli come i grandi, i maestri come i discepoli. La prima sorte toccò a Giuseppe, con i fratelli e i figli, 12. La seconda toccò a Gedalia, con i figli e i fratelli, 12. La terza a Zaccur, con i figli e i fratelli, 12. La quarta a Isri, con i figli e i fratelli, 12. La quinta a Natania, con i figli e i fratelli, 12. La sesta a Bucchia, con i figli e i fratelli, 12. La settima a Iesareela, con i figli e i fratelli, 12. L'ottava a Isaia, con i figli e i fratelli, 12. La nona a Mattania, con i figli e i fratelli, 12. La decima a Simei, con i figli e i fratelli, 12. L'undicesima a Azarel, con i figli e i fratelli, 12. La dodicesima a Casabia, con i figli e i fratelli, 12. La tredicesima a Subael, con i figli e i fratelli, 12. La quattordicesima a Mattatia, con i figli e i fratelli, 12. La quindicesima a Ierimot, con i figli e i fratelli, 12. La sedicesima ad Anania, con i figli e i fratelli, 12. La diciassettesima a Iosbecasa, con i figli e i fratelli, 12. La diciottesima ad Anani, con i figli e i fratelli, 12. La diciannovesima a Malloti, con i figli e i fratelli, 12. La ventesima ad Eliata, con i figli e i fratelli, 12. La ventunesima a Kotir, con i figli e i fratelli, 12. La ventiduesima a Giddalti, con i figli e i fratelli, 12. La ventitreesima a Macaziot, con i figli e i fratelli, 12. La ventiquattresima a Romamti Ezer, con i figli e i fratelli, 12.